fa male. Perché hai... Mi spiace, possiamo farlo insieme! Lo so, lo so, lo so, lo so che ne hai un po', lo so che ne hai... Lo sapevo! Tesoro! Basta giocare! Apri! Apri! Sai chi sono? Tesoro! Sono rientrata prima! Esci! Esci! Esci! Esci di lì! Io non voglio sentirlo! Io non voglio sentirlo! Fa freddo! Voglio alzare il riscaldamento, sì. Aiuto! Aiuto! Fa freddo! Fa freddo! Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo! Oh, Joe! Non è rimasto nessuno. No, no, no, no. Non è rimasto nessuno. Non è rimasto nessuno. Nessuno. Non è rimasto nessuno. Nessuno. Oh cielo, oh cielo, cielo, cielo, cielo. Shh, shh, shh, shh. Mister Kowalski vedrà. Shh, shh. Si piega e dà un'occhiata. Vede sette nastri rosa che formano un nodo. Oh, Joe! A teatro una donna si abitua alle attenzioni. Che ne dici, amico? Non credi che sia più bella della Garbo? Eh? Chiudere il teatro? E per che cosa? Perché c'è una guerra in corso? Bastardi! Anche lei era in lizza per la parte. Ma poi l'hanno trovata nello stagno salato. Oh, Mr. Cohen. Sarei perfetta in quella parte. Rapture è finita all'inferno. Non è un posto per una donna giovane e carina come me. Sono venuta qui per diventare una stella. Non è troppo tardi. Non è troppo tardi. Forza, amico. Gira. Usa gli occhi. Mister Ryan mi noterà e diventerò una stella. Non è troppo tardi. Non è troppo tardi. Stavo per diventare famosa. Invece ora guarda questa fogna. Chi ha bisogno di arrivare a Broadway? Se è possibile farcela qui? E 5, 6, 7, e 5, 6, 7, 8. Che cos'ho che non va? Non sono abbastanza bella, forse? Ehi, amico! Non faresti una passeggiatina con me? Avanti! Avevi detto che ti saresti preso cura di me! Stavi mentendo? Avanti, Mr. Cohen! La prego! Mi lasci in pace! In pace! Ero bellissima! Che cosa mi è successo? Maledizione! Problemi! Problemi dappertutto! Vieni che parliamo. C'è qualcosa nell'oscurità? Vuoi giocare con me? Non mi piace che bazzichi da queste parti. Non sei il benvenuto. Sai che cosa gli facciamo agli intrusi? Voglio solo sedermi e fare quattro chiacchiere con te. Salve! Sei qui per parlarmi? Salve. Forse possiamo conoscerci meglio. Posso essere gentile, se voglio. Posso renderti la vita semplice qua giù. Perché ti nascondi là fuori al buio? Perché non rientrare dal freddo? A prova questo! Dovrebbe esserci qualcuno a farlo! Dovrebbe esserci qualcuno a farlo! Avanti! Dammelo e basta! Dammelo subito! Ho già perso abbastanza tempo! Accidenti! Avanti, forza, ferraglia! Avanti! Dammelo! Subito! Subito! Forza! Forza! Forza, stupido coso! Forza! Ehi, vieni fuori! Sì, beh, sei licenziato, capito? Avevo ragione. Dannazione, avevo ragione, ti dico. Te lo dicevo che non serve a niente. Non serve a niente! Avanti, lascia che ti spieghi, ok? Dai, su, lascia almeno che ti spieghi. Avanti, dammi tregua. Cazzo! Merda, merda. Merda, che freddo. Ci vorrebbe una femmina bollente, una vodka. Merda, merda, merda. Si gela. Che è successo a questo affare? Ah, no, non può essere. Cazzo, che casino! Oh, il mio giorno fortunato! No, non può essere! Non sarebbe dovuta venire qui! È il mio giorno fortunato, come ogni giorno! Un uomo può fare affari qua giù. Non è troppo tardi. Ryan mi impalerà. Ci impalerà tutti. È solo una questione di tempo. È un brutto quartiere tutto qui. Il market tornerà come prima e tutto si sistemerà. Devo aspettare che passi questo momento. Io sono uno di successo, di fottuto successo. Non ho paura del fallimento perché io non sbaglio mai. Questi stronzi non capiscono. Sono un vincente. Ryan e gli altri se ne accorgeranno. Fontaine non aveva la roba giusta, ma io sì. Ce la farò qua giù. È solo una questione di tempo. Sono venuto qua giù per arricchirmi e non me ne andrò finché non ce la farò. Sono venuto qua giù con un sogno e si avvererà. Porca puttana! Rapture per i vincenti! E tu non mi sembri un vincente! Non venire nella mia città, ragazzo! Credevi che non mi sarei accorto di te? Nessuno ti ha invitato, ragazzo! Nessuno può prendermi in giro, ragazzo! Ryan è dalla mia parte, ragazzo, non dalla tua. Non appena ti troverò capirai come funzionano le cose qua giù. Qualcuno venga qui a riparare questo affare, subito! Dammelo, hai capito? Apri la bocca! Funziona, cazzo! Funziona! Forza! La terza volta, Cristo! E va bene, tu! Non me ne può fregare di meno, Poppanti! Di chi è la colpa? Infermiera, mi aiuti a cercare questo paziente! Vieni fuori, voglio solo cucire le tue ferite! Questo posto non è igienico, vieni a farti curare da me! Non preoccuparti, sono un professionista. Non ti farò del male, voglio solo vedere cosa hai dentro. Ci sei? All'infermiera non piaci, ma a me sì. Giuro su quello che ho di più caro che non ti farò del male. Apri! No! Rispondi alla porta! No! Rispondi alla porta! Incompetenti! Qualcuno risponda! Che freddo! Si gela! Temperatura corporea in diminuzione. 105 su 42 in diminuzione. Sorprendente. È morto? Eppure niente ragazzine. Il soggetto sembra essere stato sventrato dall'interno. Probabilmente un teletrasporto fallito. Bene, bene, bene. Davvero incredibile. Sembra familiare. Oh, dannazione, qualcuno chiami l'infermiera! Tutto ciò potrebbe essere un po' più igienico. Io ci provo a fare del mio meglio, ma a volte commetto errori. Io ci provo a fare del mio meglio, ma a volte commetto errori. Mi piaceva qui. Nessuna regolamentazione a rallentare le cose. Un medico deve sempre toccare cose sporche. Disgustoso! Starnutiscono sempre. Posso sentire la morte aleggiare nell'aria. Qualcuno può pulire questo posto? Dategli una disinfettata, brulica di germi! La cosa che odio di più sono le bambine. Sono ricoperte di morte. Spingo invece di tirare. Un uomo ha il diritto di fare qualche errore. I pazienti fanno sempre un sacco di domande. E a volte mi piace inventare le risposte. Tutti gli uomini si lamentano della propria virilità. Io posso curarli. E qualche volta ci riesco. Le bambine sono sporche. Vorrei morissero. Non mi piacciono quando sono sporche. A volte dimentico a cosa servono le pillole. Mi aiuto coi colori. Quando una malattia non è una malattia? Quando lo dico io. I batteri sono microscopici. È quello che vogliono farci credere. Mi piace il prestigio, ma non i germi che si infilano sotto le unghie ed escono strisciando di notte. Non piaccio alle infermiere. Giudicano troppo. C'è seme dappertutto. Dappertutto! Avanti! È inaccettabile! Apri! Ah, macchina del cazzo! Dannazione! Non dovrei pagarli questi! Il ritmo cardiaco sta salendo. Dannazione! Le giornate si stanno accorciando. No, non va bene! Ah! Forza! Smettila di tenerla, dannazione! Ehi, sono qui! Forza, vieni fuori, dannazione, te esci! Smettila di giocare, smettila! Ehi, che ti prende, forza? Idiota! Esci fuori! A me è permesso entrare qui, dannazione a te! A me è permesso entrare qui, dannazione! A me è permesso entrare qui, dannazione a te! Povero perdente! La mia anima! La mia anima! Ah, è così, eh? Non lo scopriranno mai! Non c'è più nulla! Ho già guardato qui, non essere stupido! Smettila, non è come pensi! Un posto come un altro, credo! Quegli stupidi ragazzini! Non sanno un cavolo! No, no, no, no! Non è questo ciò di cui stavamo parlando! Qualcuno deve pur mantenere l'ordine qui, altrimenti finirebbe in mano ai parassiti! Tutti vogliono la loro fetta di questo posto! E noi dobbiamo sorvegliare i confini, tenerli fuori! Vogliono ciò che è nostro! E noi dobbiamo difenderlo! I parassiti, i papisti, i mescolarazze! Li tengo tutti sott'occhio! Collaborano tutti insieme! Ma non avranno nulla di Rapture, neanche un palmo! Non è solo per lo stipendio! Un uomo deve avere una causa, un capo! Mi spiano tutto il tempo! Non gli sfugge un respiro, dannazione! Fontaine è morto! Non è morto! Se la sta spassando, ride di me! Atlas, Ryan, Fontaine, tutti uguali! Se la ridono tutti alle mie spalle! Vorrei pensare, ma ogni volta loro ascoltano i miei pensieri! Non puoi sottrarmelo, Ryan! Me lo sono guadagnato! Me lo sono guadagnato! Oh, accidenti! Dannazione, bloccata! Cazzo, muoviti, inutile ammasso di ferraglia! Dammi l'atomo, eh? Dolce madre pietosa! Dannazione! Non posso sopportare ancora questa merda! Che cazzo le prende ora, merda? La solita fregatura meccanica! Ma perché non la riparano? Non funziona più nulla, dannazione! E riparateli questi affari ogni tanto! Costi troppo per quello che vali! Vorrei avere delle gelatine. Some jellies. I wish I had some jellies. Iniziata! Fai presto! Questa è casa mia! Fammi entrare! Ho dimenticato la chiave! Tesoro! Tesoro! Tesoro! Oh, si è bloccata di nuovo! Insomma, ripara questa dannata porta! Non è troppo tardi! Fammi entrare! Freddo! Freddo! Aiuto! Tesoro! Oh, sì, Stiamo terminando la luce del sole. Tesoro! Audrey, Michelle, Peter, Thomas, William, Joseph... Ah, no, no, no, no, aspetta. Peter, no. Miei cari e delitari amici. No, distinti amici. Finalmente ho trovato la risposta che tutti cercavamo. Troppo introversa per essere notata da qualcuno. Oh, immagino che potrei usarla. Potrebbe servirmi un giorno di questi. Oh, gli piacerà, lo adorerà. Tesoro, ne servono altri di questi per lo spettacolo. 10 palme profumate, 16 denti d'oro, 1 viola, 5 luci del sole. Il meglio! Il meglio, figuriamoci. Oh, tesoro, tesoro, tesoro, non avresti dovuto. Charles, credo che il cuoco negro abbia rubato. La gente di colore è sempre così. Prende, prende, prende. Dobbiamo seguire dei principi, anche in questi tempi difficili. Dite al ministro che dovrà aspettare. È il matrimonio di mia figlia, non il suo. No, lui è divertentissimo. Ma sua moglie ha messo su un bel po' di chili. Arrivano sempre con le mani protese. Sono brava gente, te lo garantisco. Ma sono così pigri. Vai avanti, allora. Prendi la tua puttana e vai! Ma mi terrò tutto il resto. Tutto! Portiamo un pranzo per un bel picnic. Adoro le giornate estive. Non come le persone di Apollo Square. Animali. Tutti quanti. E quello sarebbe un filetto. Oh, se l'avessi servito in uno qualsiasi degli alberghi rispettabili di New York, ti avrebbero riso in faccia fino alla morte. Parlano, parlano, parlano, parlano, ma alla fin della fiera non hanno nulla da offrire alla società, solo più bocche da sfamare. Non andava bene in ogni caso. Non mi importa dove sia andata. Aiuto, aiuto, aiuto! Sai cosa fanno i vagabondi a Rapture? Li impiccano! So cosa cerca la gente come te, ma non ce la farai. Pensi di poter prendere ciò che ti pare, ma questa non è una giungla. Parassita! Cane rognoso! Non ho niente da darti! Qui c'è gente per bene. Tu non sei ammesso. Quelli come te non sono i benvenuti. Il ragazzo verrà a darti una sonora lezione. Ti pentirai di essere venuto qui. Ricordatelo! È sempre la stessa storia con voi parassiti. Volete l'elemosina? Mi serve! Hai capito? Funziona, dannato trabicolo! Presto! Altro denaro? Dammi! Dammi la mia roba! Come osi? Esaurito? Esaurito? I miei biglietti? Dove sono? Oh, avanti, esci! Devo pisciare! Ah, tesoro. Ora, ora mi sono calmato. Apri. Merda. Ah, che succede? Avanti, non farmi entrare con la forza. Ehi, Forza, su, Joey non c'è più. Ora puoi uscire. Non oggi, papà, ok? Voglio dire, dannazione. Apri subito. Ok, ok, giocheremo insieme, te lo prometto. Ehi! Mamma? Mamma? Mamma? Ehi, mamma? Mamma? Freddo. Che freddo. Scusa, mi spiace. Mi dispiace. Fa freddo. Resta sveglio. Resta sveglio. Cos'hai lì, amico? Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Oh, ma che diamine? È rimasto al sole tutto il tempo. Merda. Ehi, paparino, guarda qua. Quel vecchio figlio di puttana. Ok, immagino che potrai usarlo. Ti conosco. No, ti conosco. Tu sei quel tizio con la scrittura. Ma che diamine? No, non c'è nulla qui. Ho già guardato 15 volte, cazzo. Dannati ricombinanti. Assolutamente inutili. Sono abbastanza in gamba. Perché non vuoi credermi? Ci sto provando, Mr. Ryan. La prego, non mi giudichi. La prego. Mi guardi, signor Ryan. Non mi resta niente da dare. Mamma. Papà. Mi venite a prendere. Fa male. Fa male anche solo respirare. È un intruso. E noi uccidiamo gli intrusi. Voglio solo dormire. Solo dormire. Vogliono che colpisca tutto ciò che vedo! Tutto ciò che vedo! Vogliono che colpisca tutto ciò che vedo! Faccio quello che mi dicono! Solo quello che mi dicono! Sempre solo quello che mi dicono! Dove sei? Mi uccideranno se non ti trovo! Meglio se esci fuori! Sarà più facile per entrambi! So che c'è qualcuno! Non complicare le cose, esci fuori! Forza, esci fuori! Nascondendoti peggiori solo le cose! Dove sei? Forza, esci fuori! Nascondendoti peggiori solo le cose! Sì, sì, va bene. Avrò quel che voglio, in un modo o nell'altro. Avanti, su! Ma perché non funzioni? Ancora! Stupido cumulo di merda! Una macchina bellissima, ma dannatamente inutile. Questa volta è diverso, davvero. Davvero lo è. Dannazione, quanto vorrei spaccare questa roba! Oh, merda, papà! Questo non l'avevo mai visto prima. Forza, maledizione! Thank you. Balla, un altro ballo. Balla con me. Svegliati, su, se ne sono andati. Ti prego, ti prego, ti prego. Stupido, sporco bastardo. Stavi lontano, lontano. Fuori, ora, fuori. Apri subito, bastardo. Dietro ogni porta si nasconde un'opportunità. È pericoloso. Che freddo. Che freddo. Che cielo. Un piano, 1, 2, 3, 4, 6, 7. 12, 13, 34, 36. Spio questa piccola mosca e qualcosa in lui lacrima. Respira ancora. Naturalmente è solo una bimba. No, certo che non morirai. Sei solo una bambina. I bambini non muoiono. Non ti prenderanno. Sei solo la mia piccolina. È la mia piccolina. Hai i miei occhi. Non vedi? Non farle del male. Ti prego, prendimi. Ce ne andremo via. Te lo prometto. Solo non farle del male. Ti prego, la mia piccolina non ti serve a nulla. Perché non prendi la figlia del tuo vicino invece? Prendimi il mio corpo, qualsiasi cosa, ma non la mia piccola. Kishlan, sei lì, piccolina? Tesoro, hai fame? Tesoro, la mamma è qui per tenerti in braccio. Sei stato tu a prendere la mia bambina? Ti conviene di no. Tesoro, sono io, la mamma. Esci fuori ora. Dove sei, tesorino? Esci fuori, per favore. La mamma vuole tenerti in braccio. Ascolta, la mamma! La mamma si sta seccando! La mamma ora si sta arrabbiando! Ti prego, la mia piccolina non ti serve a nulla. Perché non prendi la figlia del tuo vicino invece? Ce ne andremo via, te lo prometto. Solo non farle del male. Non farle del male. Ti prego, prendimi. È la mia piccolina. Hai i miei occhi, non vedi? Smettila di nasconderti da me, basta, pulsanti! Posso averlo, per favore? Grazie, grazie. Prendere in giro non è bello. Vorrei avere delle gelatine. I wish I had some jellies. I wish I had some jellies. Bellezza, io volevo solo parlare. Sì, parlare. Quello solo volevo. Dannazione. Dannata puttana. Esci fuori. Ehi, meglio se vieni fuori. Se non è per questo, è per quello. So che puoi sentirmi. Non è giusto. Sai, ehi, c'è nessuno a casa? Non io. Stai zitto tu. Che cazzo di freddo, dannazione! Quando sei solo, il tempo non passa mai. Volevo un po' di compagnia. Nessuno mi rivolge la parola. Pensano che sia un ritardato. Vadano al diavolo. Qua giù devi essere ricco per uscire con una ragazza. La bellezza non conta. Menzogne, denaro, menzogne, denaro. Voglio solo fare qualche amicizia. Ma questo posto è un fottuto veleno. Come diceva il libro, vestiti bene, sorridi e sii te stesso. Ma le ho mandato fiori tutti i giorni e me li rispediva sempre indietro. Ti pare gratitudine questa? Un giro di ricrescita e una visitina al dottor Steinman. Poi sarà lei a bussare alla mia porta. Ho già pronti i profilattici. Sono bello, perché non se ne accorgono? È così altezzosa. Le mostrerò cosa succede ai tipi come lei. Avevi detto che qua giù si sarebbero risolti i miei problemi. Ryan! Ma quando è il mio turno, figlio di puttana? Basta ridere alle mie spalle! Steinman mi sistemerà. Tutto si sistemerà col tempo. You are the top, you are the Colosseum. You are the top, you are the Louvre Museum. You come to laugh at me too? I know you're here, and I'm itching for a fight. Try and laugh at me. Just try! Who was she? Your sister? Your cousin? I don't give a shit! Come on! You want me to teach you to dance? I'm real good! I'm gonna show you what it's like to look different! Aiuto! Aiuto! Chiunque abbia costruito questa cazzo di cosa dovrebbe essere fucilato! Queste cazzo di cose non funzionano mai! Mai! Dammi indietro i miei soldi! Vuoi aprire stavolta, tesoro? Non apri? Apri, cazzo! Ne prendo tre, questa volta, capito? Tre! Forza, forza! So che sei lì! Credi di essere tanto migliore? Perché fai sempre così? Apri! Lo sai che alla fine ti conviene! Ehi! Oh, avanti, su! Apri! Che stupido! Non sei sordo! Bene! Ehi là! Eh? Che cos'è? Cosa? Prego? Bene, bene, bene. Dio, ti ho barattato con Mammona. E cosa ci ho guadagnato? Padre, perché mi hai perdonato? Mi spiace, padre. Farò ciò che dici. Farò ciò che dici. L'ho indossato per te, padre. Come piace a te. Anche a chilometri sott'acqua vede tutto. Vede tutto. Gesù mi ama! Lo so, perché lo dice la Bibbia. Le piccole vanno da lui. Loro sono deboli, ma lui è forte. Secondo te, sono così prevedibile? La sua luce risplende anche qua giù nell'oscurità. Io rispetto tutti i suoi comandamenti. Io rispetto tutti i suoi comandamenti. Io rispetto tutti i suoi comandamenti. Ti abbiamo voltato le spalle. Io infatti volgo la mia faccia contro questa città per farle del male e non del bene, dice il Signore. Pensavamo di poter sfuggire alla luce qua giù, ma ci sbagliavamo. Dov'è Maria? Dov'è il piccolo peccatore? Sai come trattiamo i Giuda? I peccatori si nascondono nelle tenebre! Sono qui per giudicarti! È morto per i vostri peccati, per i tuoi peccati! Che il Signore abbia pietà della tua anima! Io non ti vedo, ma lui sì! Credi di poterti nascondere? Il Signore vede tutti i nostri peccati! È morto per te, per i tuoi peccati, figlio di puttana! Sei un bastardo irriconoscente! Ti ha offerto la salvezza e tu ci hai cagato sopra! Aiutami, Maria! Aiutami a trovare questo peccatore! Ti troverò, peccatore! E allora... No! No! No, por favor! No! Las amigas! Eh? Perché sopporto tutto questo? A che serve? È ridicolo! Ah, inutile aggeggio! Forza! Cosa c'è ora? Chi ha costruito questi affari?